Anche perché rientra in tutto un percorso che abbiamo fatto all'interno di RAG, un percorso di svelamento di tutte quelle che sono una serie di pratiche identitarie e tipiche della politica degli ultimi anni in Italia. Io vorrei incominciare proprio con una citazione che si trova all'interno del libro e che è tratto dalla Casa in Collina di Cesare Pavese. È una citazione che ultimamente sto sentendo spesso nei social, insomma, gira spesso. Comunque, per venire a noi è questa. Non sei fascista, mi disse. Era seria e rideva. Le presi la mano e sbuffai. Lo siamo tutti, caracate. Se non lo fossimo, dovremmo rivoltarci, tirare le bombe, rischiare la pelle. Chi lascia fare e s'accontenta è già un fascista. Volevo partire da questa citazione proprio perché racchiude tutta una serie di elementi che poi si troveranno anche all'interno del libro. Quando Pavese appunto dice quello che ha appena detto, cioè chi lascia fare e s'accontenta è già un fascista, già ha un primo approccio che è un confronto in primo luogo con se stessi, senza immediatamente andare a cercare di dire quello è il fascista è così, e una sorta di mostrificazione, eccetera. Questo è un tema molto importante in questo libro ed è un po' il punto fondamentale, anche il sottofondo che si può leggere. Venendo invece alla prefazione del libro, che ritengo introduca molto bene tutti gli argomenti, vorrei leggervi alcuni passi. La prefazione di Jonathan Friedman, che è un antropologo molto conosciuto di fama mondiale ed è stato professore all'École adesso scusatemi, il mio francese è pessimo, quindi no, è meglio che non lo dico comunque, all'École beh, ve la traduco, di studi sociali di Parigi, nonché dell'Università di San Diego, eccetera. E dice esattamente questo. Vado a leggerlo perché altrimenti rischio veramente di non cogliere appieno quello che lui intende. Il focus etnografico di questo libro è Casa Pound, un movimento nato recentemente che è emerso dal calderone delle tendenze contraddittorie che hanno caratterizzato l'estrema destra italiana dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Tra i risultati più significativi e salienti di questa ricerca c'è la somiglianza tra questo fascismo del terzo millennio, come essi stessi si definiscono, e molta cultura politica occidentale in generale, senza escludere la sinistra. La sua analisi del fenomeno porta l'autrice alla conclusione che il fascismo, lungi dall'essere totalmente estraneo all'ideologia occidentale, è piuttosto una parte di essa, pur presentando alcune significative variazioni nei temi principali. L'espressione maoisti fascisti, applicata a questi gruppi, è un'espressione di quanto appare come una confusione, ma è più vicina ad una fusione, cioè una sistematica sovrapposizione. Così il viaggio etnografico. Sì? Ok, no, ero io, scusate. Così il viaggio etnografico sembra, in fondo è, pericoloso. Finisce con un più spaventoso riconoscimento di somiglianza di una prossimità da cui uno vorrebbe prendere le distanze, ma da cui è impossibile farlo. L'estrema destra, in questa prospettiva, è interamente parte del nostro stesso mondo e questo libro ci sprona a fare i conti con questa realtà, dal momento che non riguarda alcuni altri, ma noi stessi. Beh, io direi che come insomma per capire di che cosa stiamo parlando sono abbastanza importanti le parole di Friedman. Ora per andare un po' più nello specifico rispetto a quello che è il libro, passerei la parola a Giorgio. 1977, Michel Foucault osservava che uno dei fatti politici più importanti del secondo Novecento è la non analisi del fascismo e scriveva anzi il rifiuto a decifrare che cosa sia stato realmente il fascismo. E secondo me questo è un enunciato molto importante e effettivamente, come dire, noi abbiamo una storia culturale, diciamo, degli ultimi 70 anni in cui nella cultura italiana ed europea sia il fascismo che il nazismo sono stati considerati una sorta di parentesi. In Italia è Benedetto Croce nel 1947 che dice che il fascismo è una parentesi e invece la tradizione europea è una tradizione luminosa e meravigliosa. Ma oggi, no, oggi noi ci troviamo di fronte in Europa a populismo, a razzismo, a nazionalismi, diciamo così, molto chiusi, a estremismi di destra, a forme di neonazismo e di neofascismo diffuse, grosso modo, in tutto il continente europeo e anche fuori dal continente europeo. Quindi, evidentemente, per noi è importante mettere a fuoco il problema non soltanto nel senso di un contrasto delle organizzazioni neofasciste sul territorio, ma appunto che cos'è il fascismo, svolgere un'analisi del neofascismo. Per questo, sostanzialmente, questo libro, a mio avviso, è importante, è un libro centrato, ed è un libro strutturato sostanzialmente in tre parti, no? La prima parte è un'analisi della tradizione neofascista italiana, sostanzialmente dal 1945 ad oggi, quindi un quadro di quello che è stato il neofascismo e anche delle contraddizioni apparenti, attenzione, del neofascismo, cioè delle direzioni varie, diverse che il neofascismo prende tra, come dire, la tradizione missina, gli elementi esterni della tradizione missina, diciamo così, la linea di coloro che si ispirano a una terza posizione sostanzialmente, e cioè che rivendicano in sostanza una sorta di apoliticità al di là della destra e della sinistra e che iniziano a sperimentare in sostanza dei fenomeni di mimetismo che in realtà sono essenziali al fascismo, perché ricordiamoci che il fascismo e il nazismo nascono come diciamo, ridefinizioni autoritarie di culture rivoluzionarie, di culture di sinistra. Quindi il rapporto strutturale del fascismo con le culture di sinistra è un fatto che non va inteso come qualcosa di, come dire, scontato, ma è che il fascismo si è nutrito per ridefinirle in chiave autoritaria, in chiave, diciamo così, totalitaria di elementi della cultura rivoluzionaria. Quindi voi avete un quadro molto ben fatto di questa, e molto anche sintetico, chiaro, di questo spazio storico, che è uno spazio in fondo, sì, magari indagato da un punto di vista anche sociologico, però mai indagato da un punto di vista, come dire, più ampio, cioè di cosa significa per noi il fatto che questo fenomeno non sia stato un fenomeno, come dire, episodico, ma è un fenomeno invece che ha i caratteri della strutturalità. E a questo punto voi avete due altri spazi del libro che sono in sostanza dedicati a un'analisi dall'interno di un'organizzazione neofascista abbastanza nota, Casa Pound, che nasce nel 2003 da un'occupazione, da un'occupazione come questi neofascisti dicono a scopo abitativo e si sviluppa in sostanza attraverso delle pratiche che possono assomigliare sostanzialmente a delle pratiche di movimento, occupazioni di case, occupazioni di centri sociali, tematiche, diciamo così, di carattere sociale, un'organizzazione addirittura ecologica, la foresta che avanza, tutta una serie di elementi culturali, dal rock a, come dire, una forma di socialità che possono, come dire, sembrare in qualche modo che hanno i caratteri di un movimento sociale. Questa ricognizione dall'interno è una ricognizione istruttiva perché mostra proprio qual è in sostanza, quali sono in sostanza le strutture, l'autoconsapevolezza di un fascista. E nello stesso tempo pone, e questo avviene soprattutto nella terza parte, il problema di analizzarne anche l'ideologia, la struttura ideologica, quindi il modo di vita, lo stile di vita, come dicono i neofascisti, e anche il significato di questo stile. stile di vita. In questo senso si tratta di un libro che cerca di mettere a fuoco un problema che noi abbiamo di fronte, e lo fa, a mio avviso, in un modo molto interessante. L'importanza di questo libro, a mio avviso, detta nel modo più semplice, è questa, cioè che si va oltre quella che nel libro è chiamata la mostrificazione, o potremmo dire anche la patologizzazione del fascista, no? Che è un modo in fondo per circoscrivere l'interrogazione che l'esistenza di movimenti neofascisti ci pone, no? E cerca invece di produrre un'analisi di tipo diverso. Perché è importante, diciamo, superare la mostrificazione o la patologizzazione, diciamo, del fascista? A mio avviso per questo, perché è una semplificazione, no? Che non ci permette di capire, è una semplificazione che non ci permette di analizzare e di contrastare nel modo più efficace, diciamo, i movimenti neofascisti. Pensate, non so, quando siamo di fronte a qualche stragista, da Breivik a Gianluca Casseri, che è un militante di Casa Pound, che ha compiuto una strage a Firenze, mi pare nel 2013, noi vediamo che è il gesto di un folle. Se abbiamo un'aggressione, come dire, premeditata, calcolata, Casa Pound è un'organizzazione molto, come dire, controllata e che calcola le proprie mosse, è sempre, diciamo così, una rissa tra balordi, cioè sono chiavi di spoliticizzazione, di de-ideologizzazione di questi movimenti. Ecco, quindi secondo me in queste tre tappe questo libro ci dà degli strumenti importanti, degli strumenti e anche dei momenti di riflessione importanti. Quindi io vorrei anzitutto porre una domanda all'autrice su il tipo di approccio, il tipo di metodo che ha usato in questa indagine e anche perché ha scelto questo, diciamo, questo approccio metodologico. Ok, grazie e grazie a tutti di essere qua. Sì, allora, questa ricerca, come dicevamo, è cominciata tanti anni fa, era il 2009, e in realtà perché ho scelto di farla è stato in concomitanza con l'apertura della sede di Casa Pound a Bologna, sicuramente, che mi ha posto delle questioni. Cioè mi sono proprio chiesta come era possibile che a qualche centinaio di metri da dove io ero cresciuta stesse aprendo una sede di militanti, appunto, che si autodefinivano fascisti del terzo millennio. Perché ho scelto lo strumento dell'antropologia e quindi dell'etnografia di cui andiamo a parlare? Beh, sicuramente perché è il mio strumento, è la disciplina che ho studiato, e perché penso che studiare, e appunto in particolare l'antropologia, siano degli strumenti che, se si mette al servizio delle cose che vogliamo imparare e conoscere meglio, possono essere degli strumenti molto utili. Quindi sostanzialmente mi sono chiesta che cosa potevo fare io per capire perché appunto un gruppo di fascisti apriva una sede a Porta Castiglione. Quello che potevo fare era qualcosa di questo tipo. Non pensavo all'epoca che sarei arrivata ad oggi, però sono contenta che ci siamo arrivati. Che cos'è l'antropologia e che strumenti si dà? L'etnografia è lo strumento che si dà all'antropologia per appunto raccogliere dati, e che vuol dire sostanzialmente recarsi sul campo e quindi andare a conoscere le persone che si vuole studiare e le realtà che si vuole studiare. Quindi questo studio è basato su un periodo che ho trascorso a Roma, era il 2010, andando appunto a conoscere e a intervistare i militanti di Casa Pound. Non è stato semplice, io mi sono presentata loro come ricercatrice che venivo da Parigi, e quindi dicendogli che volevo fare quella che era e che è diventata una tesi di dottorato sul loro gruppo politico, esplicitando che non ero una simpatizzante, cercando di limitare l'avversione, cioè provando a dirgli sì, non sono una simpatizzante, però voglio venirvi a conoscere, non è che sono andata lì proprio dicendogli vi odio. Ovviamente, però comunque si sono posti subito una serie di problemi a livello metodologico, perché loro con me, come hanno anche fatto con altri ricercatori, perché ci sono pochi libri in Italia di ricercatori che hanno studiato il fenomeno. Uno di questi, appunto, questo di Nunzio Toscano, sono due sociologi di Roma, e come hanno fatto la stessa cosa che hanno fatto con loro, cioè chiedergli di scrivere a quattro mani il testo, sostanzialmente. Mi hanno chiesto di poter leggere quello che io avrei scritto prima che io lo passassi ai miei professori. E ovviamente perché ai fini di una migliore comprensione del fenomeno dall'interno, a loro dire, anche io ovviamente gli ho risposto che ero un po' a disagio, che non era quello che intendevo col fare una ricerca libera e neanche con la potenzialità di un confronto, e sostanzialmente dopo poco me ne sono andata a gambe levate. Quindi il materiale che ho raccolto e su cui si basa questa ricerca è il materiale che ho potuto raccogliere nel periodo di quello che viene definito di contrattazione del campo, cioè nel quale mi presentavo, ho fatto i primi incontri, ho partecipato a degli eventi, sono entrata nei loro spazi, e nel quale alcuni militanti mi hanno concesso delle interviste che però sono profonde e sono molto interessanti. Quindi sostanzialmente dopo, nonostante me ne sia andata, in accordo con appunto i miei relatori del dottorato, ho deciso di lavorare comunque su quel materiale, anche se volendo in termini scientifici o accademici e etnografici si potrebbe parlare di un'etnografia fallita sostanzialmente, perché un'etnografia, per come la intendono gli antropologi, deve durare molto tempo in cui un ricercatore entra nella realtà che vuole studiare e esperisce proprio la quotidianità. Ecco, io non ho fatto questo, non ho vissuto la quotidianità dei militanti di Casa Pound, ma li ho visti qualche volta e li ho intervistati e ho partecipato ad alcune iniziative. Questo comunque ha permesso di cogliere alcuni punti, proprio perché quello che diceva Simone prima, cioè il punto di partenza, essendo un punto di partenza comunque di una persona come me, cresciuta a Bologna, nata il giorno della liberazione di Bologna dai fascisti, e quindi molto legata a tutto quello che è una cultura, un insieme di valori che sono appunto qualcosa che non credo neanche di avere scelto. L'antifascismo non lo considero una scelta politica, lo considero qualcosa che esiste per quanto mi riguarda. Per cui però andare a incontrare il fascista vuol dire andare a incontrare quello che si è sempre pensato come appunto un mostro informe che rappresenta tutto quello che teoricamente non c'è più, che rappresenta teoricamente tutto quello che noi non siamo, e che quindi quando lo guardi negli occhi ti obbliga a guardarti allo specchio, sostanzialmente. Io nel libro ho usato una metafora pugilistica perché ritengo che funzioni, ed è proprio come quando appunto pugile si allena per salire sul ring. Di fatto, quando si allena si guarda sempre allo specchio, ripete costantemente dei gesti in modo ripetitivo, estremamente ripetitivo, per dei mesi e dei mesi, e questa è una parte dell'allenamento che ho dovuto fare anch'io per andare a incontrare i fascisti, nel senso che bisognava imparare a staccare tutto quello che era il mio preconcetto, pregiudizio, passato, vita, concezione politica, e ascoltare e non giudicare nel momento in cui avessi sentito delle frasi magari sgradevoli, come mi è capitato. Quelle merde di Action che mandano i negri a menarci, me lo sono sentita dire, e tu devi stare di fianco e far finta di niente, perché sennò cosa stai lì a fare, no? Però no, ci vuole allenamento. E l'altra parte dell'allenamento è quella che poi appunto, come un pugile che si allena per salire sul ring, in realtà si allena guardandosi allo specchio, che vuol dire che vede allo specchio la proiezione di sé come nemico, che lo specchio gli butta contro. E andare a guardare il fascista negli occhi ti obbliga a guardare la proiezione di te come nemico, e quindi la proiezione di sé, di loro, e cercare di trovare la differenza. Quindi trovare l'umanità. Dall'altra parte la metafora pugilistica serve anche a questo, demostrificare, nel senso di l'avversario col quale comunque salgo sul ring ha il mio peso e può combattere. quindi è umano, quindi non è un mostro, quindi posso capirlo, studiarlo e anche farci un combattimento con, magari con o senza l'arbitro, poco importa, però non mostrificarlo, non mistificarlo, ma renderlo tangibile. Un po' quello che ho cercato di fare è stato questo, ecco. Oh, devo dire, in questo libro a me le interviste ai fascisti mi hanno molto colpito, e dico subito perché. Perché dentro un discorso anche quotidiano di parole normali, ogni tanto cadono delle formule che hanno il carattere di un gergo misticheggiante e che alludono a qualcosa che non viene espresso, no? Per esempio parlano di comunità di destino, no? O usano formule, diciamo così, che non appartengono al linguaggio comune. E questo esprime qualcosa, secondo me, abbastanza interessante, cioè il fatto che cada pound sia costruito su sostanzialmente due livelli. Nel 2009 Saverio Ferrari intercettò, cioè non lui, diciamo così, pubblicò delle mail che erano intercorse tra Geronimo, cioè Gianluca Iannone, e i militanti delle sedi periferiche, e queste mail erano interessantissime perché facevano proprio allusione al segreto, cioè alla dimensione di un'organizzazione che ha due livelli, che ha un livello esterno esoterico e però ha una dottrina esoterica. E in queste interviste si vede benissimo, diciamo così, che ogni tanto, come dire, scatta un altro livello di linguaggio, un linguaggio che fa riferimento a qualcosa che resta nascosto. E questo è interessante, secondo me, per questa ragione. Se noi guardiamo a, come dire, delle forme esterne, c'è il concerto rock, c'è l'occupazione, ci sono forme che potrebbero sembrare, diciamo così, simili, ma in realtà dentro c'è qualcosa di diverso. Che cos'è il fascismo allora? Ecco, da questo libro, almeno la mia impressione, cioè che ci sia un'idea dell'identità, sostanzialmente, come un fatto statico, no? Non come un rapporto, ma come una cosa che è già data, no? È definita in modo autoritario, non solo è già definita, ma è un disciplinamento autoritario dell'identità che deve continuamente, come dire, adeguarsi a qualcosa che è già dato da sempre e che non può essere modificabile, è sottratto al tempo, ha dei confini, no? Questi confini vengono sentiti come sempre aggrediti, cioè non sono io che, come dire, sprango una persona che io ritengo diverso, è lui che mi ha aggredito perché è diverso, perché io ho una concezione dell'identità molto rigida, no? E stirpe, nazione, razzismo, violenza sono percepiti come meccanismi di difesa di di questo fatto. Allora io vorrei chiederti proprio su questa questione della comunità di lotta e di destino, diciamo, che cosa tu hai capito attraverso queste interviste, questa, diciamo così, indagine sul campo? Quindi potremmo dire, la domanda è come i militanti percepiscono la loro appartenenza a questo movimento. E sì, la cosa interessante è che magari loro ti parlano di programmi, ma in realtà adesso non abbiamo neanche parlato di programmi, ma va bene lo stesso, ma in realtà loro percepiscono Casa Pound appunto come una comunità, e il loro attaccamento al gruppo avviene in quanto attaccamento ad una comunità di lotta e di destino. Ci sono tre livelli della comunità, quello appunto di lotta, cioè Casa Pound, quello di destino, cioè della proiezione all'interno di tutta quella che è la corrente del fascismo, che va dentro Casa Pound, ma anche oltre, in quello che loro definiscono eterno presente, un tempo quindi astorico, ci torneremo, e la comunità nazionale, dopo si può andando oltre, però di sicuro la comunità. Quindi c'è questo, si capisce da alcune cose che appunto loro mi hanno detto, provo a citarvi qualche frase estrapolata. Io penso che la comunità per noi sia comunque prioritaria rispetto a noi stessi, è prioritario preservare la comunità di destino. Il rapporto non è di amicizia, ma di cameratismo. E potrei andare avanti, ma non ne voglio adesso, non lo farò, non su questo punto. ma diciamo che c'è una visione, una percezione del movimento come qualcosa di, come un'esperienza esistenziale, nelle loro parole, questa è tra virgolette sempre, e cioè non c'è una scelta razionale di aderire al movimento Casa Pound, c'è un incontro che in realtà il più delle volte avviene attraverso la musica, e cioè attraverso i concerti di Z0 Alpha, diciamo qualche nozione di base su Casa Pound. Casa Pound, come ha già detto Giorgio, nasce nel 2003 attraverso un'occupazione abitativa nel quartiere Esquilino a Roma. Però chi ha occupato questo palazzo all'Esquilino è un collettivo che si chiamava Fahrenheit 451, si chiama ancora, che è il collettivo di base, il nocciolo di Casa Pound, che è poi formato dai musicisti del gruppo rock Z0 Alpha. Il cantante del gruppo Z0 Alpha è Gianluca Iannone, che è il leader del movimento Casa Pound. E in realtà questo è un elemento fondamentale per capire la dimensione e di cosa Casa Pound è un'innovazione all'interno di quella che è tutta la corrente del neofascismo italiano. Perché se da una parte Casa Pound riprende e recupera moltissime idee a livello di programma che erano già state proposte sia nel ventennio che durante appunto tutta la storia del neofascismo in Italia attraverso l'MSI, passando per Ordine Nuovo, Terza Posizione e oltre, quindi a livello programmatico ci sono c'è una grossa continuità e una grossa furbizia nell'avere recuperato tutte quelle che erano le criticità fondanti, la critica interna alla destra, all'estrema destra italiana neofascista. Dall'altra parte ci sono delle forme di innovazione e che sono soprattutto questa, cioè la capacità di avere adeguato e ascoltato delle esigenze che avevano avuto i giovani, in particolare i missini, negli anni 70. E cioè un bisogno di comunità, un bisogno di non vedere l'adesione all'ideologia politica solo in termini di dibattiti, non dibattiti, di comizi, come erano quelli che venivano fatti appunto negli anni 60 e 70 dall'MSI, in cui c'è il capo che parla, i militanti che ascoltano, obbediscono, mettono in pratica, ma poi non c'è nient'altro. Dall'altra parte si facevano le occupazioni, c'era il femminismo, c'era tutto quello che è stato negli anni 70 in Italia, e i fascisti invece non esisteva. Quella che è anche in qualche modo si potrebbe parlare di socialità, socializzazione, cioè mettere insieme la politica allo stare insieme. Ecco, Casa Pound ha avuto la furbizia di provare a mettere in pratica questo, cioè dire prima ci diamo un posto dove stare, delle birre da bere insieme, ascoltiamo dei concerti, facciamo musica e poi facciamo politica. E questa è una cosa, nel mondo loro, è una cosa nuova che Casa Pound ha introdotto in Italia sicuramente, presente in altri movimenti sempre europei, e che però di fatto cosa comporta? Comporta che per i militanti di Casa Pound l'adesione non è un'adesione a un partito e al suo programma, è il fare parte, completamente parte, quindi l'immedesimazione totale del corpo, anche fisicamente, e della persona all'interno della storia e della comunità. Quindi la comunità è primaria, preservare la comunità di destino viene prima che occuparsi della propria salute fisica, mentale, della propria vita e della propria esistenza puntuale, peculiare. E vi è una forte venerazione del capo che avviene in modo esplicito, in modo particolare durante appunto i concerti, dove quindi capiamo che il concerto, se a cantare il gruppo rock, il cantante è il leader del movimento, nel momento che ci sono tutti quelli sotto che ascoltano, i militanti che ascoltano, quello non è solo un concerto, diventa un vero e proprio rituale politico di comunione in qualche modo e di condivisione del potere sostanzialmente. È un'attualizzazione nei tempi di oggi in realtà di quella che è una forma politica propria del fascismo e anche del fascismo storico. Sostanzialmente Mussolini e Hitler e i movimenti politici appunto del ventennio nero del Novecento avevano già adottato un nuovo stile di fare la politica che tendeva a appunto rendere almeno e ovviamente teoricamente spettacolarmente partecipi del potere anche la popolazione attraverso i comizi, non i comizi, le parate, le cerimonie che erano fondamentali nel regime fascista, dove tutti partecipavano e veniva questa grande orgia del potere di venerazione del duce, dove però protagonista di quel momento rituale sembrava essere il popolo stesso sostanzialmente, che venera se stesso. Ecco i concerti degli 80 Alfa ad Area 19, dove mi è capitato di andare, sembrano proprio questo momento. Io sono stata ad un concerto nel 2010, era la presentazione del nuovo disco, dell'ultimo disco dell'epoca degli Z0 Alfa, era uscito da 7 giorni, non sono tanti 7 giorni, concordiamo, e c'erano 500 persone che sapevano tutti i testi a memoria, tutti, dal primo all'ultimo, e le cantavano contemporaneamente. Quindi un grande sentimento proprio di compartecipazione che in quel momento viene sancito, e voilà, e dove il capo rappresenta proprio un'entità molto molto importante di immedesimazione e di omologazione. L'altra caratteristica sicuramente importantissima di questa comunità è appunto la differenza, che è giusto esplicitarla, come mi suggeriva Simone prima. Comunità non vuol dire collettività, non vuol dire collettivo, non vuol dire soltanto comunione di intenti, condivisione di obiettivi, vuol dire in questo caso omologazione, quindi chiusura interna e anche idea del sacrificio. I militanti tendono a pensare che sia un bene sacrificarsi per la comunità. La comunità deve vivere al di là delle vite individuali, quindi è una tendenza all'omologazione, cioè ognuno non è ognuno con la sua specificità, ognuno è una parte di un tassello che si forma con tutti insieme, ma l'importante è il puzzle totale, che a formarlo siano quel pezzo o quell'altro in realtà diventa indifferente, quindi non c'è nessuna valorizzazione dell'individuo, ovviamente, manco a dirlo, ma c'è un appiattimento delle persone per lo scopo totale, collettivo. Ecco, mi viene in mente adesso un'altra, dunque, cosa importante di Casa Pound, è che questo modello, diciamo, di medesimazione della comunità non è, di nuovo, una novità di Casa Pound, è una cosa che è la stessa ideologia fascista che il fascismo aveva per lo Stato, dove quindi l'uomo era funzionale allo Stato, ed era lo Stato la cosa grossa e importante che doveva continuare a esistere, lo Stato italiano. Ecco, per Casa Pound l'innovazione è che non hanno bisogno di avere il potere e di essere al governo e di essere in un regime fascista per mettere in pratica un certo tipo appunto di modello e di modo di fare politica, ma riescono a farlo attraverso un movimento. Quindi l'innovazione più importante, una delle innovazioni più importanti è sicuramente il fatto che un movimento che poi è diventato partito, ok, questo non l'abbiamo detto, Casa Pound nasce come un movimento extraparlamentare che è una costola della fiamma tricolore, nel 2003, nel 2008 si scinde dalla fiamma tricolore, diventa un'associazione di promozione sociale, nel 2013 diventa partito politico indipendente che si presenta alle elezioni, nel 2014-15 crea Sovranità che si allea con la Lega Nord, quindi adesso è un vero e proprio partito con una sua rispettabilità incredibilmente in questo paese. Però di fatto nasce come un movimento e come movimento è capace di mettere in pratica e di organizzare lo stesso modo di fare la politica che era proprio del ventennio di Mussolini quando c'era un regime statuale. Quindi lo stesso modello non ha più bisogno di avere il potere, di avere i gendarmi per obbligare a che venga messo in pratica, ma si riesce ad adeguare a delle strutture molto più labili, molto più piccole, come quelle di un movimento sociale, per l'appunto. Però... È molto interessante il fatto che comunque si parli di questa, che di fatto è una concezione estetica della politica, perché proprio di questo stiamo parlando. E allo stesso tempo quello che tu scrivi anche nel libro ci riporta alla questione del mito mobilizzatore o della macchina mitologica che sta spesso dietro a molte azioni di questa comunità, tra virgolette. C'è un altro aspetto che tu tratti parlando proprio di tutta una serie di miti, eccetera, all'interno di Casa Pound, che è il mito della bella morte, che secondo me è un aspetto abbastanza importante all'interno della loro struttura. Non so se vuoi. Sì. Due cose quindi importanti. Una è un modo di fare la politica dove quindi alla base non c'è un ragionamento razionale, ma c'è l'utilizzo di un linguaggio che sfrutta qualcosa che ho definito come macchine mitologiche, cioè non io, ho ripreso un termine con Ettore Friesi, che è un intellettuale molto importante, purtroppo precocemente scomparso, che ha appunto studiato molto bene la cultura di destra. Macchine mitologiche sono proprio quel qualcosa che indica qualcosa che non può essere visto, ma che tutti quindi possono immaginare come vogliono sostanzialmente. Quindi un modo di fare la politica che si basa su i miti, i riti, ve li ho già detti, e i miti vuol dire un linguaggio, di nuovo usando Furiesi, di idee senza parole, vuol dire sostanzialmente quando io dico tutto il contrario di tutto, quando io parlo per slogan, quando io utilizzo un linguaggio che va avanti a simboli, e andando avanti a simboli ognuno vede nel simbolo quello che vuole vedere e non c'è un vero contenuto, dunque è estremamente intelligibile, è estremamente facile da condividere e da attecchire intorno alla, per la gente, soprattutto per la gente che magari non ha una profondità culturale, una coscienza politica e critica. Ho parlato con i fascisti del terzo millennio e quindi parlando anche appunto della mitologia e dell'ideologia non ho potuto non chiedergli che cosa per loro fosse il fascismo come ideologia e come loro definissero, come loro interpretassero la loro identità fascista, proprio ponendogli questa domanda: che cosa vuol dire per te essere fascista? Ed è stato interessante perché c'è stato sia qualcuno che mi ha detto no, ma vedi, per me il fascismo è una cosa complicata, in realtà non lo so, in realtà io dico che sono fascista perché mi dicono che Casa Pound è il fascismo, ma se Casa Pound fosse qualcosa, cioè per me è importante che è Casa Pound che va bene, di nuovo capo e omologazione al pensiero del capo che viene introiettato. E invece c'è stato qualcun altro che era più, diciamo, preparato a rispondere, che ha dato una risposta che provo a non dire, non ve la giudico, parla da sola, però questa merita di essere letta. Perché lui mi diceva, e il fascismo, vedi, appunto, mi ha ribadito questo concetto che il fascismo non è un programma. Quando tu chiedi a qualcuno cosa vuol dire per lui essere fascista, mi disse, devi capire che non sì, va bene, c'è un programma, ma non è questo. C'è tutto un modo di vivere la vita, c'è tutto uno stile di vita che caratterizza l'essere fascista e anche l'innamoramento per il fascismo molto prima del programma, delle scelte politiche, della socializzazione, eccetera, eccetera, eccetera. Anche lì dici, sì, ma quindi dimmi che cos'è questo modo di vivere la vita, che cos'è questo stile di vita di cui mi parli? Questo sentimento del mondo, come l'aveva definito lui. E lui disse, è un po' difficile spiegarlo in una definizione, è un modo di vivere la vita che riesce ad essere allo stesso tempo severo e scansonato, che riesce ad essere marziale, goliardico, che è comunitario, ma alle volte per certi versi persino libertario, per certe soluzioni iniziali, poi il discorso si fa più complesso, però non so se tu hai in mente, è uscito recentemente un bellissimo libro di Gianno Accame, La morte dei fascisti. Tra le altre cose, in questo libro viene descritto il rapporto dei fascisti con la morte, soprattutto con la morte loro, cioè come tutta una serie di fascisti affrontano la morte. E c'è costantemente questa idea di andare a morire con il sorriso, che non è uno slogan, cioè è praticamente è qualcosa che la gran parte delle camicie nere fa, cioè dona se stesso. Ma qui non è che il fascismo sia l'unica dottrina che prevede il sacrificio dei militanti fino alla morte, però è l'unica dottrina che fa questo e lo fa con il sorriso. E questa è una cosa proprio bellissima. Ci sono delle immagini di dei ragazzi, anche giovanissimi, fucilati, che stanno lì con la sigaretta e sorridono davanti al plotone di esecuzione. E tu quando vedi questa cosa capisci che c'è qualcosa che ti rapisce il cuore, qualcosa che ti cattura. Questa, secondo me, dei ragazzi che vanno a morire con il sorriso, è proprio il massimo dell'incarnazione dello stile fascista. Questa testimonianza io credo che parli abbastanza da sola e appunto fa vedere, apre tutta la questione della religione della morte, cioè della tendenza di questa cosa terribile che è l'idea di andare a morire con il sorriso e andare a morire per la comunità che vive al di là delle nostre vite peculiari, delle nostre vite individuali. La nostra vita di singolo non esiste, non ha valore, non ha importanza. Quello che conta è la causa comune, è la causa del movimento, è la causa del fascismo. E ci sono, e non sono solo parole decantate. Citava prima Giorgio Casseri, era il 2011, non era il 2013, era tra pochi giorni, era il 13 dicembre. A Firenze, pistola, ammazza due senegalesi a Mercato San Lorenzo, poi fugge, ne ferisce altre tre, di cui uno va in coma, non muoiono, e poi dopo il pomeriggio, quando ricompare, è seguito dalla polizia e cosa fa? Si ammazza. Cosa hanno detto i militanti di Casa Bauna? Hanno detto che quello lì era un matto, era un pazzo. Cosa hanno riscritto tutti i giornali? Renzi all'epoca era sindaco di Firenze. Hanno scritto che quello era il gesto di un folle isolato, che non aveva niente a che vedere con la cultura di Firenze di quel momento, che non aveva niente a che vedere con la cultura politica italiana. Nessuno ha fatto nulla contro Casa Bauna in quel periodo, non c'è stata una perquisizione per vedere se i militanti avevano armi nascoste da qualche parte. E Casseri è stato sepolto, rinnegato dal movimento del quale faceva parte, per il quale scriveva articoli che venivano pubblicati su internet, nel quale era tesserato, del quale era un militante, non era un pazzo, era un fascista. Ok? Non era un pazzo, era un fascista e ha rispettato quella che era la filosofia fascista fino alla fine. Fa parte della filosofia fascista l'insuscettibile voglia di resa, si dice così, no? Non esiste arrendersi, piuttosto la morte. Questo ha fatto Casseri, non era matto. Era molto intelligente e semplicemente credeva nella cosa in cui aveva voglia di credere. Questa questione della comunità, a me colpisce questo, cioè quando devono parlare della comunità, queste interviste finalmente usano l'espressione corpo organico. Cosa vuol dire corpo organico? Innanzitutto è proprio la dottrina del totalitarismo fascista, quindi cioè sono persone che mostrano, come dire, una versione esistenziale magari anche un po' ignorante, ma che ripetono esattamente dei concetti che sono proprio tipici della dottrina del fascismo storico. Vi leggo solamente alcune battute. Per esempio, uno dice: perché comunque c'hai un cameratismo, una fratellanza con gli altri, che ti può portare anche a fare un sacrificio, il sacrificio estremo che è quello della vita per proteggere quella comunità, che è una proiezione di te stesso, anche se poi non sono persone che hai scelto, che ti sono amiche, che ti sono simpatiche, diciamo che vi siete scelti perché vi siete trovati a condividere una cosa che riguarda entrambi, a fare parte di uno stesso corpo organico, per cui è vero magari che uno è un pezzetto di mignolo, uno un pezzetto d'orecchio, eccetera eccetera. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una gerarchia, e altra espressione interessante è gerarchia naturale, che è esattamente, come dire, la dottrina dello Stato di Mussolini. Gerarchia naturale vuol dire che nella natura c'è un ordine piramidale per cui il capo è il capo e ognuno deve stare al suo posto, e la consapevolezza, diciamo, di essere un corpo, come un corpo fisico, uno è l'ano, uno è il naso, uno è l'orecchio, uno è l'alluce, e ognuno deve stare al suo posto e fare parte come di un corpo la cui identità non è data dal singolo, ma appunto dalla comunità. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che io penso alla società non come uno spazio pieno di contraddizioni, no? uno spazio lacerato, pieno di ingiustizie. No, la penso come uno spazio uniforme in cui si tratta di dominare il caos con un ordine che è scritto fin dall'inizio del tempo e di negare quindi la conflittualità come dimensione, come dimensione sociale. E non a caso voi trovate che questi neofascisti fanno sempre dei discorsi che sono A uguale non A, cioè la contraddizione è il loro linguaggio. Vi leggo solo una battuta: dentro casa Pound non ci sono regole, non ci sono, ma tutti però rispettano le regole. Cioè questo è il loro, cioè il loro pensare alla comunità come una comunità di destino, come una comunità, diciamo così, che ha un'identità definita, predefinita, statica, immobile, aggredita da qualsiasi eccetera, li porta a pensare continuamente in termini contraddittori. Infatti una cosa che emerge da questo libro, secondo me, è abbastanza interessante, che tutte queste contraddizioni, diciamo così, che uno può vedere nelle varie correnti dell'estrema destra europea, non sono in realtà contraddizioni, sono una struttura dell'estrema destra europea. Noi vediamo un'estrema destra, non so, che filo occidentale o antioccidentale, che si schiera da una parte e insieme dall'altra. Pensate all'Ucraina, Ucraina, sostanzialmente i neofascisti stanno dall'una e dall'altra parte. Pensate che dalla guerra in Afghanistan alle due guerre in Iraq, eccetera, le organizzazioni neofasciste e neonaziste europee sono sempre schierate da una parte e dall'altra. Perché? Perché il culto della violenza purificatrice, della violenza che purifica l'identità, fa in modo che non è il problema, come dire, da che parte bisogna stare, no? Noi vogliamo stare dalla parte giusta della barricata. Loro non hanno questo interesse perché hanno un culto della violenza che è una violenza identitaria, una violenza, radicata su un'identità che si sente chiusa, che si sente non un rapporto, no? Mentre noi pensiamo che l'identità sia sempre un rapporto, sostanzialmente una pluralità di rapporti aperta. E vedete che, come dire, cosa succede? Che laddove Casa Pound percorre, diciamo, delle forme di aggregazione che possono sembrare simili a quelle dei movimenti antagonisti, in realtà lo fa solo per riprodurre al centro, diciamo sul fondo del loro discorso, qualcosa che è esattamente il contrario, no? Allora il problema della mostrificazione, secondo me, è importante perché ci permette, secondo me, di chiarire effettivamente qual è la nostra differenza, cioè evitare la mostrificazione e nello stesso tempo educare il nostro odio. Forse odio è una parola, Aristotele avrebbe detto lo sdegno, no? E cioè è chiaro che, come dire, l'uomo ama e vuole invece allontanare le cose che disprezza, cui non, è sempre così, no? È inutile pensare di non dover educare anche la nostra repulsione. Educare la nostra repulsione verso cose che non ci piacciono è un'attività importante ed è basata sul fatto di conoscere il mondo, non di, come dire, odiare qualcosa che uno non conosce, non sa come funziona. Questo libro, secondo me, fa vedere proprio qual è il nocciolo della questione, cioè il nocciolo del perché siamo antifascisti, cosa noi rifiutiamo dentro quella cultura, quella ideologia, che è un'ideologia, omicida sostanzialmente. C'è un bel libro di Canetti, Potere e sopravvivenza, no? In cui dimostra proprio questo, cioè che l'ideologia di morte del fascismo non è una casualità, è il centro, in realtà parla del nazismo, è il centro del nazismo, cioè è, come dire, una costruzione basata proprio sulla religione della morte. Ecco, scusate la digressione, volevo un altro aspetto, secondo me, rilevante di questo libro, è quello di collocare il fenomeno neofascista dentro quello che tu chiami, anche con altri autori, l'integralismo politico. europeo e diciamo anche extra europeo, e anche il fondamentalismo culturale, diciamo così, della nostra epoca. Ecco, ti chiederei magari di sviluppare questo concetto, che secondo me è sia un concetto interessante da un punto di vista conoscitivo e sia anche uno strumento di lotta e di propaganda che può essere interessante. Sì, allora il punto della faccenda è di cosa Casa Pound è modello e quali sono di cosa è sintomo, e la domanda che potremmo farci è solo i militanti di Casa Pound, solo le persone che si rivendicano questa identità manifestano e in realtà fanno parte di questa cultura politica, oppure appunto si tratta di una cultura politica che va al di là di chi ne rivendica e ne pratica, e la pratica e la rivendica. Ecco, io tendo una seconda di risposte, cioè e in questo appunto c'è questo concetto che è quello di integralismo che viene in aiuto. A volte quando parliamo di fascismo, seppure appunto come dicevamo prima, credo che sia importante provare a sviscerarlo e capire di cosa parliamo quando parliamo di fascismo, però in Italia siamo troppo pieni di una cultura di appunto mostrificazione per la quale il fascismo è solo il demonio mostro e tutti gli altri sono per forza non fascisti, per non dire antifascisti o comunque non fascisti, e c'è proprio una frontiera che è troppo dicotomica tra l'uno e l'altro, mentre il termine integralismo permette di andare al di là di questa dicotomia e cercare di vedere qual è una cultura politica e quali sono i suoi aspetti, quale le sue impalcature, quali le sue strutture e quindi dove questa si vada a insinuare e chi la pratichi sostanzialmente. E di integralismo parlano varie persone, non è un concetto che ho inventato io, ma non sto a citare, perché mi sembra sia opportuno, a tutti gli autori. E diciamo che è uno stile politico, è una cultura politica, di sicuro presente molto in Europa in questo periodo, che ha un paio di caratteristiche fondamentali. Una è l'utilizzo della storia per appunto attraverso la storia costruire appunto un'identità. Il punto qual è dell'integralismo? Di sfruttare quelle che sono le insicurezze e le paure prodotte dalla crisi del sistema nel quale viviamo, e quindi la crisi dei processi di identificazione che la crisi della globalizzazione comporta, quali appunto nessuno parla più di classi sociali, in questo periodo non esistono più, quindi non ci sono più forme di identificazioni come sono state nei secoli passati. L'integralismo cosa fa? Esaspera queste paure, queste insicurezze, fomentando delle forme di radicalizzazione, di attaccamento che sono di fatto miticizzate, inventate, plastificate, e che le crea attraverso appunto delle identificazioni che possono essere legate a una storia specifica, e questo sicuramente Casa Pound lo fa con il legame che viene rivendicato e messo in pratica con lo squadrismo, con il ventennio, con il Manifesto di Verona. Apro e chiudo parentesi, il Manifesto di Verona viene copiato e incollato nel programma politico di Casa Pound presentato alle elezioni del 2013, cioè loro si sono presentati come partito delle elezioni amministrative in Italia con un programma che è un copia e incolla del Manifesto di Verona, che è un testo di Mussolini, scusate, del 1943, inizio della Repubblica di Salò. No, non è vero, del 1943, punto, scusate. Chiudo la parentesi. Quindi integralismo, quindi rapporto con la storia, e dall'altra parte un'altra caratteristica dell'integralismo è appunto l'utilizzo di un certo linguaggio che è capace di coniugare opposti e contraddizioni, le strategie della politica, la paura, l'utilizzo della paura per andare avanti, per inventare le cose, per costruire un discorso che non è per forza conseguenziale e razionale, ma che si giostra e per il quale le contraddizioni sostanzialmente non sono un problema, ma la capacità di coniugare elementi contraddittori è una delle sue caratteristiche principali. su questo è giusto dire una cosa su quello che è il fondamentalismo. Quando Giorgio parla di identità, io avrei parlato di cultura. È la cultura che secondo me è un processo, la cultura è un percorso, la cultura è qualcosa che è sempre in movimento, che per definizione non può essere un'identità. E quello che invece viene fatto da questo tipo di movimenti è proprio fomentare una retorica legata a un'identità culturale. Quindi sostanzialmente reificare la cultura rendendola un oggetto, attaccata a dei confini, territorializzata all'interno delle frontiere e quindi dei confini nazionali, e quindi sostanzialmente creare un'identità nazionale legata a una storia, ad un paese, che di fatto attacca in modo, a questo punto, ontologico delle persone e il loro modo di essere al posto dove sono nate e quindi alla propria nazione. Anche questa è una grande invenzione della storia, una nazione, opponendole a tutti quelli che quindi sono per definizione impossibilitati a avere questa condivisione, perché non nati in quel paese, non nati in quella cultura, non nati con questa identità culturale e quindi per forza di cose separati, altro. Tutto questo si chiama in realtà fondamentalismo culturale, si basa appunto, c'è tanta roba da scrivere, c'è scritta su questa roba qui, e è alla base di tutta la gestione, di tutta l'idea delle politiche migratorie portate avanti anche da Casa Pound, come da tutti i movimenti di questo tipo. L'altro, siamo partiti in questa riflessione ragionando sull'altro e di quindi come l'altro... Noi, l'antifascista va a incontrare il fascista. Che cosa vuole dire incontrare l'altro quando l'altro è appunto il brutto, il cattivo, il demonio, il mostro? E come invece loro valutano l'altro? L'altro per il fascista è quel qualcosa che deve comunque esistere perché loro possano costruire la propria identità. È un'identità che si costruisce solo e unicamente in opposizione, attraverso la paura e la demonificazione dell'altro. La paura è fondamentale e l'altro si costruisce su più livelli. C'è l'altro in alto, multinazionali, elite economiche, banche, quindi tutto quello che nelle retoriche degli slogan politici sono no euro, no multinazionali, no FMI, tutto quello che loro vendono come anticapitalismo, che non è altro che forme di autarchia e di nazionalismo e di statalizzazione dei sistemi bancari, finanziari e delle imprese e via dicendo. E poi c'è un altro che invece è in basso, che sono i migranti, che diventano quell'altro di cui appunto stop evasione, chiudere i centri di accoglienza eccetera eccetera, che diventa quell'altro tra l'altro presente nel quotidiano e che permette all'identità di costruirsi. Vi cito solo due o tre esempi che prima non abbiamo detto ma che sono importanti. Casa Pound, come si auto, la retorica di Casa Pound, come si autodefinisce? Le occupazioni sono le occupazioni di destra, i centri sociali di destra, e loro sono la cultura non conforme. Non conforme a cosa? Non conforme rispetto a cosa? Rispetto ai centri sociali, rispetto alla cultura antagonista, rispetto a tutto quello che è cultura anche di un paese. Oppure un loro posto, appunto, dove per esempio sono viste in concerto, Area 19, postazione nemica, è proprio il nome del posto, per non parlare delle cose che scrivono sulle magliette, dovremmo riaprire il libro ma non importa, o i testi delle canzoni. Cioè l'altro nella metafisica del casapondino, diciamo, del modo che lui ha di costruire se stesso. È fondamentale, se non ci fosse l'altro non ci sarebbe il sé, non c'è mai un sé positivo, il sé è solo il negativo ed è solo vittima della pregiudiziale antifascista, vittima delle violenze che riceve da parte degli altri e poi però, voilà, poi però i migranti non devono esistere e se muoiono è lo stesso perché non sono più altri e vengono disumanizzati. Quindi l'altra parte del creare un altro, quando alla base di questa dicotomia c'è un'identità, un fondamentalismo culturale, c'è la disumanizzazione dell'altro. E quindi un altro che diventa... Io ho usato il termine di un mio caro amico e collega Giacomo Bolognese, lo perfido, e cioè un'opposizione olistica, cioè qualcosa che diventa intrinsecamente diverso e opposto, che non può raggiungere, non ci può essere in nessun modo un ponte tra noi e loro, e quindi l'altro non è più umano, e quindi non ha più diritti, non ha più diritto alla cittadinanza, non ha più diritto ad avere dei diritti, non ha più diritto a esistere, e quindi se muore nelle barche in mare è lo stesso, se muore perché era in un mercato a Firenze è lo stesso, non c'è più l'empatia tra le persone, perché l'umanità è proprio solo di chi fa parte della comunità, solo chi è dentro la comunità è degno di esistere, e gli altri o possono essere incorporati oppure devono essere soltanto eliminati sostanzialmente. Va bene, io a questo punto chiederei se ci sono delle domande, se qualcuno vuole intervenire, dire qualcosa. Devo venire lì? No, prego, tanto ci sentiamo. No, volevo chiederti, tu che per quello che hai frequentato, voglio dire, l'ambiente, ci parli delle donne di casa Paolo? Ah, interessante. Sì, me la fanno sempre questa domanda. Io ho conosciuto una donna a Casa Pound ed è stato il mio primo trauma perché era simpatica, era stato incredibile, perché doversi relazionare con una persona simpatica nonostante che fosse fascista è stato un trauma. Però in quanto donna, dai. Me la sono detta così, esatto. Detto ciò, quando a lei ho chiesto che cosa vuol dire essere donna a Casa Pound, come tu te la vedi, lei ovviamente mi ha dato la risposta che bisognava dare, e cioè non c'è nessun problema ad essere donna a Casa Pound, siamo tutte come le altre, via dicendo. L'altra risposta formale che ti danno è che esiste pure un gruppo di donne a Casa Pound, e poi dopo scopri che la promotrice del gruppo di donne di Casa Pound è la moglie di Gianluca Iannone, che fa 3 lavori, ha 3 figli, mentre lui fa solo politica. Quello che ti posso dire dalla mia piccola esperienza è che le uniche donne che ho visto quando sono andata a questo concerto erano... ci saranno state 500 persone di donne, non erano più di 30, ed erano tutte, ma tutte, tranne quella che veniva con me, che mi accompagnava, che era una responsabile alta nella gerarchia, erano tutte in cucina, ma senza eccezioni, con i guanti di lattice alle mani a fare i panini. Quindi questa è l'unica risposta che ti posso dare. Ti posso aggiungere che voilà, nel programma di Casa Pound ci sono alcuni punti che loro considerano proprio molto importanti, proprio perché fondamentali, perché in tutta la loro battaglia di vendersi bene, nuovi, questa proposta di legge che si chiama Tempo di essere madri, che propone appunto il mantenimento del salario uguale per uno dei due genitori nei primi 6 anni di vita di un figlio, però lavorando 2 ore in meno, quindi dalle 8 alle 6 ore di lavoro. E questa per loro è una proposta molto innovativa, che sarebbe anche rivoluzionaria, per permettere il diritto alla maternità sostanzialmente. Ecco, fermo restando che può essere una proposta di legge di cui si può anche voler, cioè nel senso, voilà, perché viene proposta e qual è quello che ci sta dietro, e cioè quello che ci sta dietro in questo caso non è una tendenza a riconoscere a una donna il diritto a fare quello che lei desidera e quindi magari anche soddisfare un istinto e un desiderio di maternità, ma la donna deve fare figli e deve farli per la grandezza della nazione, e cioè per la grandezza dell'Italia, e questo è scritto nello stesso punto del programma. Cioè non è che ti sto attaccando delle cose che te le ho messe insieme io. Nello stesso punto del programma in cui spiegano che cos'è il tempo di essere madre, quindi questa proposta di legge, parlando del problema della demografia. Anche qui riprendendo quindi una tradizione di cui sono figli diretti, che è quella del ventennio, dove c'erano delle politiche demografiche molto importanti, perché proprio se hai il culto della nazione, una nazione non può esistere senza tanti... parroli che saranno futuri soldati e futuri cittadini italiani. possibilmente non medici. Ovviamente. La cosa che abbiamo detto prima a proposito del fatto che non riconosciamo il diverso sono gli Übermensch nazisti, no? Per cui noi abbiamo, cioè voglio dire, il nazismo e il fascismo hanno ammazzato gli ebrei perché erano sottouomini, non riconoscevamo neanche in quanto uomini, no? Dunque c'è una linea diretta rispetto a questa cosa, per cui gli italiani, i possessori della patria, del territorio sono uomini. Altri, gli ebrei e gli stranieri sono Übermensch, quindi se io li devo ammazzare, io non parlo che devo ammazzare un uomo, parlo che devo ammazzare un animale, e quello lì è il discorso. Cioè gli attacchi alla Caritas di Milano è esattamente quella roba là, ecco. Poi voglio dire, è una roba agghiacciante che ci siano ancora delle manifestazioni di questo genere, no? Che non ci sia ancora, come dire, un antifascismo così forte, queste persone non si debbano vergognare. Cioè, niente, era solo una cosa. Però è una roba, cioè, mi chiamavano Übermensch, cioè, sotto uomini. No, mi fa piacere che dici questo perché è proprio la... In realtà quando prima provavamo a parlare di mostrificazione, perché un po' la tesi che è sottofondo di tutto questo testo è proprio questa, cioè un tentativo di demostrificare i fascisti per renderli intelligibili e dall'altra parte vedere di cosa i fascisti sono sintomo oggi rispetto alla nostra considerazione degli altri e vedere come purtroppo l'umano esiste, ma esiste l'umano e solo l'umano. E non esiste l'inumano e il disumano da una parte e dall'altra. E quindi questa frase che ho citato adesso è di Jonathan Litter, che è un grande scrittore francese che ha scritto un agghiacciante libro di più di 1000 pagine, un tomo incredibile che quindi vedo che conosci, che si chiama Le Bénévoles, dove studia un romanzo terribile, bellissimo, scritto benissimo, ma terribile, dove è la storia di praticamente un personaggio che è nato negli anni 15-20 e che la storia porta a diventare un generale degli SS presente in tutti i momenti più atroci, e dove però viene descritto come alla non entriamo nei dettagli, non voglio neanche deresponsabilizzare, però alla fine la tesi di Hitler è appunto che esiste l'umano e solo l'umano, e anche il generale degli SS in questione, se vogliamo, era un umano, e questo sempre nel tentativo di demostrificare il nazista in questione. Dall'altra parte però io uso la stessa metafora in chiusura del libro per parlare appunto di come purtroppo la gestione attuale del fenomeno migratorio sia agghiacciante, e quindi come quando sentiamo parlare di bombardare barconi, di lasciare morire la gente, di chiudere via dicendo, sia un campanello di allarme che deve fare suonare, perché è proprio dalla disumanizzazione dell'altro che si è cominciati negli anni 20, quando si facevano, stasera presentano a Berneri proprio un libro sulla identificazione che fecero negli anni 20 e 30 di tutti gli ebrei, di tutti gli zingari. Sì. Vabbè, da un'altra parte, allora l'ho letto comunque che facciamo una cosa del genere. Ed è proprio quello che viene fatto adesso. E cominciamo sempre non parlando più di uomini, ma parlando di categorie. Quindi non sono più uomini, ma gli ebrei erano finanzieri. Non sono più persone che scappano dalla guerra, ma sono migranti, profughi, rifugiati, quello che volete. Però il campanello d'allarme è sempre quello lì, purtroppo. Io volevo... No, niente, non so come esprimerlo, però tanto di quello che hai detto, no? Nel descrivere l'ideologia di Casa Pound, io lo ritrovo in tanto della sfera politica, no? Generale di questo paese, cioè la disumanizzazione dell'altro e nei discorsi che vengono fatti tranquillamente nella sfera politica generale da organizzazioni tipo la Lega, ma anche esponenti del governo, del centrodestra, così insomma. Io trovo molto questa cosa, no? Questa costruzione che noi dovremmo avere oggi della nostra identità contrapposta ai migranti è fondata, no, su questi su questi elementi come la cristianità, no? Quindi ti volevo chiedere se tu hai percepito, cioè tu conoscendo Casa Pound non hai pensato, come a me veniva in mente, tante volte mi viene in mente, ah ma guarda quanto del fascismo c'è nella nostra società, no? Cioè, è quello che dicevo Pasolini. Come impregnata. Come impregnata la nostra società di fascismo, perché quello che dicono a Casa Pound, cioè lo sentiamo continuamente nella quotidianità politica di questo paese, no? Non so se sì, no, e quando parlavo di integralismo cercavo di dire esattamente questo. Cioè sì, dopodiché possiamo dirlo in tanti modi, possiamo fare nomi e cognomi, possiamo fare studiare dei privilegi, possiamo parlare della Bossi-Fini. Possiamo parlare di tante leggi che di fatto sono leggi fasciste. Non li vedo tanto mostri, quelli di Casa Pound, cioè io vedo mostri dappertutto, voglio dire. Così, cioè, magari da tanti. Siamo